Zero. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Breve, breve, brava. Brava, breve. Compro una vocale, la A di Ancona. Siamo alla lettera D. D di Domodossola. Fiato. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene... Prova a dare la soluzione. Tari, tari, amici miei. Con Imu e Yuk sono Giacciuk. La tia per mia zia. La tari ci brucia i denari. Giro. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Tutti in pista, il momento, Deborah, dovrebbe essere quello buono, tempo permettendo. Un po' caldino forse. Ecco. Allora, comunque, se amate la neve, già state assaporando il piacere di una bella discesa, chiamateci, fateci sapere se praticate lo sci alpino, lo snowboard, il fondo, se siete ciaspolatori e soprattutto come pensate di affrontare piste ad Henley. Vi state preparando con tutti i riguardi? Vi sentite in forma? Facciamo un check insieme, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. E se nella pagina di Cuore ci prepareremo per affrontare nel modo più sano e sicuro le piste da sci, anche nella pagina di Denari, a modo nostro, ci prepareremo e alleneremo alla settimana bianca. Alleniamo il portafoglio un po' per farlo, ma cercando la località che fa per noi e che è anche conveniente dal punto di vista della sistemazione. C'è chi affitta un appartamento sempre nella stessa località da sempre, chi cambia ogni anno, c'è chi non vuole rinunciare a qualche giorno sulla neve, ma quest'anno ha bisogno di risparmiare un po'. Di tutto questo parleremo nella seconda parte della puntata a partire dalle 11.45. E il C, per planteare la lezione, si deve spiegare qual è il scopo del C. Ogni sport ha un suo scopo. E il scopo del C è cibulare. Allora io contesto duramente, morfologicamente, questo è scopo. L'uomo non è fatto per cibulare. Se tu cibuli davanti della casa ti fa male, te incavola anche. Perché devi andare a organizzarti in 2000 a cibulare come dei vermi per una montagna? La definizione precisa del C è cibulare per una montagna recuperta de neve, che è la cosa più cibulosa che esiste nella natura. Ma la neve è cibulosa, ma ce n'è poca. Buongiorno al dottor Confalonieri, che è tornato a trovarci. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Non per fare le previsioni del tempo però, No. Ma, dottor Confalonieri, io vorrei, dato che lei manca da un po' di tempo, ecco, nonostante noi l'abbiamo invitato più volte e gliela faremo pesare per tutta la trasmissione, manco rispondeva. Mi assumo tutte le responsabilità. Allora, a caricare il carico di briscola, mettiamo. Ecco, può recuperare. Sì. Allora io le leggo il messaggio che ci ha scritto Paolo. Lei entro la fine della puntata deve farne uno non così bello, perché non ce la farà, ma quasi. Tentare, allora, di superarsi. Vai, leggi un po'. Lo leggo io? Sì. Allora, le stelle di Natale rallegrano queste feste. Voi siete stelle tutto l'anno. Tanti auguri a voi e a tutta la radio. Paolo, lei è il nostro top di gamma della giornata, direi. E grazie, quindi, Paolo. Dottor Confalonieri, un po' frustrato, lo vedo, no, però ce la farà. Frustrato. Ce la farà. Si alleni. Esatto, ci rimetta in forma per sciare. Perché voi siete belle come le stelle, ma riuscite a scaldarci come un sole. Beh, io mi alzo e me ne vado. Ci ha umiliato così. No, ha copiato. Non mi ha convinto. Le stelle sono fredde lontane. A proposito di parole, c'è una parola magica che è al tempo stesso regola e raccomandazione: gradualità. Spesso, infatti, dottor Confalonieri, si è impazienti di misurarci con piste e anelli. D'altronde lo sci, lo sappiamo, è un'attività piacevole e rilassante, ma non dimentichiamoci che è pur sempre un'attività fisicamente impegnativa, come diceva anche Gioele. Assolutamente, anche contro natura, diceva lui, insomma, non è proprio contro natura. Noi tutti galleggiano. Sì, se non hanno paura galleggiano. Sì, mentre sullo sci devi imparare a avere un po' di tecnica. No, assolutamente. Non è tanto naturale. No, non è tanto naturale e soprattutto non è tanto naturale se iniziamo tardi. Se notate, risulta molto più naturale per il bambino, che avendo un baricentro basso gli basta allargare le braccia e tutto sommato rimane in piedi anche la prima volta che mette gli sci. Per noi che siamo un po' più alti e conseguentemente insomma, e conseguentemente meno coordinati, diventa più difficile, meno naturale. Quindi sono attività, tutte quelle di cui abbiamo parlato o di cui parleremo diversamente, che presuppongono un minimo di condizione di allenamento fisico, poi magari entreremo nel dettaglio, e un minimo di abilità motorie che vanno comunque sviluppate come l'allenamento gradualmente, quindi affrontandolo con un impegno di difficoltà crescente, cosa che adesso con questi nuovi sci si tende a non fare, siccome sono più facili tantissimi prendono, partono e improvvisano, e con scene che sono degne del comico che abbiamo sentito prima. E uno dei problemi nelle piste di questi ultimi anni è il sovraffollamento, ci sono degli impianti che portano sempre più su persone che da monte scendono a valle, un'attrezzatura che è più facile rispetto a quella degli anni passati. Certo, quindi... la problematica che convivono, parliamo di discesa adesso, gli snowboarder e gli sciatori, che hanno una capacità e una modalità di gestione del mezzo completamente diversa, e poi con gli sci carving indubbiamente è molto più facile scendere, però si tende anche ad esagerare, si tende a prendere troppa velocità proprio perché ci si sente padroni del mezzo, e quindi si diventa potenzialmente molto più pericolosi. Allora, noi oggi con lei vorremmo fare una sorta di tagliando, capire se siamo in forma, perché lo sappiamo che non basta, no? Infilarsi gli sci ai piedi per essere sciatori, ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Uno sciatore deve essere agile, resistente e coordinato, però deve essere anche dotato di una certa forza. C'è un modo, dottor Confalonieri, per valutare il nostro stato di forma generale? Possiamo fare un test? Io direi due test semplicissimi. Il primo sulla forza, particolarmente importante per chi fa lo sci da discesa. Allora, appoggiamo la schiena al muro, gambe a 90 gradi, quindi coscia sul polpaccio ad angolo retto, e vediamo per quanti secondi riusciamo a mantenere questa posizione. Tre allora, secondi, ho già finito il test. No, esatto, diciamo che i 5 secondi sono già un primo minimo traguardo, poi man mano si va su una scala di 5 secondi in 5 secondi, e invitiamo magari i nostri ascoltatori a farlo, a comunicarci il risultato, così gli diamo anche un voto e un giudizio. Certo, possono mandarci anche una foto. Mandateci una foto, bellissimo, dico, adesso bellissimo. Mi è venuto un flash, tantissimi anni fa avevo un'amica che sciava e che qualche giorno prima di partire metteva gli scarponi da sci, quelli che poi ovviamente attaccano allo sci, e stava in casa tutto il giorno a camminare con quelli. La frequenti ancora? No, non la vedo da un bel po' di tempo, ma funziona come allenamento per il muscolo. I vicini, no, secondo me l'hanno già fatto. Direi di fuori. No, che non lo considererei. No, bocciata, dai. Invece, ma che amiche hai? Testare, non sono in grado di giudicare. Testare la nostra resistenza. Inviterei a camminare 5 minuti a passo veloce, quindi non a corsa ma passo veloce, un passo che tutto sommato ci crea un minimo di difficoltà nel parlare, soprattutto se non siamo allenati. Misurare la nostra frequenza cardiaca prima di iniziare questa camminata, al termine, e vedere di quanto aumenta. Questo ci dà già un indice del nostro allenamento in termini di resistenza. Vi dico già a grandi linee che se aumenta della metà della frequenza cardiaca a riposo siamo allenati, oltre più aumenta meno siamo allenati. Molto banalmente, a riposo siamo 80, 80 più 40 che è la metà, 120, se stiamo in questo range siamo allenati, oltre bisogna andare molto gradualmente sulle piste. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino, salirò, salirò. E infatti si sale. Allora, dottor Confalonieri, andando in vetta, il fattore altitudine in che modo influisce sullo sforzo? Moltissimo. Moltissimo, ed è spesso trascurato. E qua bisogna fare subito un distinguo. Tantissimi tra noi purtroppo soffrono di ipertensione, magari anche ipertensione in forma lieve, o ipertensione che in pianura viene trattata con dosaggi farmacologici molto molto contenuti. Attenzione, perché dai 1200, e quindi non parlo di grandi altitudini, dai 1200 metri in su la pressione va assolutamente tenuta sotto controllo. Più si va in alto, magari anche con escursioni giornaliere, perché si sale per poi scendere per andare su, più va tenuta sotto controllo. Quindi questo è un primo consiglio che mi sento di dare veramente. No, ma cosa vuol dire tenerla sotto controllo? Vuol dire che chiunque di noi è in terapia, sì, prima di andare a sciare, oppure non è in terapia ma sa di essere borderline, che è per esempio un po' il mio caso, sì, cioè è al limite ma non ha bisogno di terapia in pianura, vada dal suo medico curante, da colui che gli gestisce questa terapia, gli dica: ok, sto andando in montagna, vivrò a questa altezza e andrò a sciare fino a 2000, 2500, 3000 metri. Cosa devo fare? Aggiungere un farmaco nelle giornate in cui si sale, oppure aggiungere un farmaco durante tutto il periodo, oppure aumentare un pochino il dosaggio del farmaco che già si prende, così come d'estate quando si va al caldo si tende a ridurre un po' spesso la terapia. Questo pochi lo fanno, ed ma è estremamente importante. Per primo questo aspetto. Le abbiamo messo la domanda sul fattore altitudine. Primo aspetto, secondo aspetto, sì. Ecco, secondo aspetto, ricordiamoci che dai 1800-2000 metri in su invece anche persone relativamente allenate si accorgono dell'altitudine e quindi della ridotta pressione dell'ossigeno e quindi cominciano a sbanfare, a fare fatica, gli manca il fiato. Sono stato sì, poco scientifico, ma ho voluto mamma chiarissimo. L'idea. Quindi ricordiamoci che ciò che non ci costa fatica al livello del mare comincia già a costarci fatica dai 1800-2000 metri in più e poi proporzionalmente sempre di più. Quindi finisco, la stessa sì, discesa fatta a 2000 metri ci impegna molto molto meno che una discesa analoga fatta magari a 3000, perché abbiamo voluto prendere l'impianto che ci portava fin su per poi fare magari una discesa più lunga e più divertente. Abbiamo i nostri ascoltatori sì, che ci chiamano e Massimo tra l'altro le dice dottor Confalonieri che è il suo preferito e grazie di esistere addirittura. Vede che deve tornare più spesso. No, quando mai questi complimenti glieli fanno nessuno, fuori da qua? Ve lo prometto che tornerò più spesso. Allora, andiamo a Padova da Federico, perché naturalmente gli chiederemo se tutte le raccomandazioni che il dottor Confalonieri ha fatto fino a questo momento lui le ha seguite alla lettera. Federico, benvenuto da Padova, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. È pronto a partire? E dove va intanto? Io sono già in viaggio in questo momento, sto partendo per la stagione invernale. Sì, insomma, si andrà a sciare spesso durante questa stagione, almeno una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni. Ci dica la località, che così la usiamo per la seconda parte della trasmissione. Esattamente, vado in Val di Fiemme. Val di Fiemme, ottimo. Bellissima la Val di Fiemme. La fai sci da fondo o discesa? Discesa, sci alpinismo e freeride. Sci alpinismo è perfetta la Val di Fiemme, sì. E quindi Federico cosa voleva raccontarci? Diciamo che è un paio di mesi, ecco, che ci si, non dico allena perché comunque sono sport che si fanno bene o male tutto l'anno, però con corsa, esercizi di un po' di fitness, magari un po' più specifici per lo sci da un paio di mesi. E ho già avuto occasione di andare, tra virgolette, a testarmi 2 volte. E com'è andata? È pronto? Diciamo che la prima volta è stato abbastanza faticoso riprendere dopo quasi un anno, perché insomma non è proprio così semplice. Dopo però diciamo che già dalla seconda volta diciamo che si sente di più, si prende un po' più confidenza, ecco, con tutto quello che si è fatto in precedenza. Grazie, allora buona sciata a Federico da Padova e dottor Confalonieri. Federico ci racconta, è una persona allenata, io vorrei arrivare alle nostre tipologie. Federico, ecco, è il sportivo che noi abbiamo definito 4 stagioni, perché si allena e poi quindi è già pronto alla ecco, pista, ma anche in questo caso, come ci ha raccontato Federico, prima di affrontare le piste ha fatto degli esercizi più specifici. Prima c'era la prescistica, adesso è caduto un po' in disgrazia, ma che cosa si può fare? Quali sono le attenzioni, le precauzioni? Come allora, ci si prepara? Una notazione molto importante che traspunto proprio da quello che raccontava Federico. Federico sicuramente è uno sportivo a 360 gradi, quindi è allenato, ma avrete notato che ha detto: la prima volta ho fatto molta fatica, comunque me ne sono accorto, sì, poi già dalla seconda volta andava meglio. Questo perché? Perché lo sci, e parlo dello sci da discesa in questo caso, sia che snowboard, sia lo sci classico, sia lo sci alpinismo, è un'attività molto particolare dal punto di vista muscolare, in quanto quasi tutto lo sforzo che facciamo è quello che si definisce uno sforzo eccentrico. Cioè noi fondamentalmente scendendo il muscolo si allunga per contrastare appunto e per gestire lo sci in fase di discesa. Quindi è uno sforzo completamente diverso da quello che facciamo in tutte le altre attività e in particolare anche nelle attività in palestra. Il muscolo si allunga? Sì, il muscolo si contrae, ma per contrastare proprio i salti e le discese stesse. Quindi lo sforzo diventa di tipo eccentrico, è uno sforzo molto impegnativo, ma che è difficilmente allenabile. Questo significa che da un lato con la prescistica noi riusciamo ad allenare bene soprattutto l'apparato cardiovascolare e le articolazioni. Quindi la prescistica è utile per prevenire tutte le problematiche a livello articolare, in particolare a livello del ginocchio, che è l'articolazione più esposta, però è poco utile per allenare in modo specifico la muscolatura. La muscolatura in pratica la alleniamo solo sciando o correndo in discesa o facendo attività di questo tipo, diciamo che è paragonabile alla discesa, anche a piedi lo sci, proprio come tipologia di sforzo. E quindi anche lo sciatore esperto inizialmente fa fatica e soprattutto avrà un fortissimo dolore il giorno dopo. Questo dolore del giorno dopo è proprio il dolore legato ai microtraumi da contrazione eccentrica. Sono contrazioni che tra l'altro aumentano molto rapidamente la massa muscolare. Tanti di voi avranno osservato che gli sciatori sono tutti caratterizzati da gambe molto grosse, sì, rispetto agli specialisti di altri sport, proprio perché facendo sforzi eccentrici c'è una continua distruzione e ricostruzione del muscolo con sviluppo della massa. 800 24 00 24, raccontateci se vi state preparando, se userete ad esempio le ciaspole. Ti ricordi che avevamo fatto una puntata, sì, sui ciaspolatori? Sì. Altro che. Ecco, e allora raccontateci anche se andate sugli anelli di fondo. Come ci scrive Andrea su Twitter, ci chiede quale preparazione per lo sci di fondo, che è comunque molto impegnativo. Altro che. Molti passano dalla discesa al fondo, ma poi l'allenamento è molto diverso. Le caratteristiche sono completamente diverse. Lo sci da discesa è un esercizio di potenza, come abbiamo visto fino adesso. Il fondo è uno classico sport di resistenza, quindi noi dobbiamo essere ben allenati dal punto di vista cardiovascolare se facciamo sci da fondo, qua l'altitudine diventa importantissima, grande fatica più andiamo in alto, e soprattutto se pensiamo di fare lo sci da fondo dobbiamo essere ben allenati sia a livello di arti inferiori sia a livello di arti superiori. Nel fondo hanno una grossa importanza anche le braccia, come nella ciaspola, cosa che non hanno invece nello sci da discesa. Quindi chi si allena per lo sci da fondo tutto sommato deve allenare l'apparato cardiovascolare, correre, camminare, andare in bicicletta prima, e se va in palestra fare un lavoro di resistenza, ma sia per le gambe che per le braccia. Ci scrive Desiree e lo vogliamo, sì, leggere questo messaggio. Il bambino, 2 anni fa mio figlio sciando si è rotto 4 vertebre cadendo. Consigliate per i bambini il paraschiene, molto importante. È così, dottore? Cosa dice? Il casco sicuro. Casco sicuro. Casco sicuro, ma obbligatorio. Certo. È proprio impensabile. È stato molto sfortunato il bambino della signora, perché è piuttosto raro un incidente con frattura addirittura di 4 vertebre. Ecco, obiettivamente, voglio dire, non si usa per il ciclismo il paraschiena, dove sono molto più frequenti incidenti che comportino la frattura delle vertebre. Indubbiamente per una mamma apprensivo prudente può essere un consiglio importante. Diciamo che non è la frattura più frequente. Poi, come si diceva prima, i bambini sciano molto naturalmente, molto facilmente, proprio perché sono bassi di baricentro. Il problema con i bambini è tutto sommato coltivargli quella sana paura che hanno dovendo affrontare qualcosa di nuovo, perché il rischio è che, scoprendo che sono capaci, loro autostima cresce, aumenti troppo rapidamente. Sappiamo che per pericolo. Il bambino l'incremento di autostima è estremamente gratificante, poi esagerano. Allora, avventure e disavventure anche sulle piste da sci, con le vostre raccomandazioni, i vostri consigli. Andiamo a Francesco, che ci chiama da Como. Buongiorno Francesco, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi, approfitto per farvi gli auguri. Grazie. grazie a voi e anche a Radio 24 di avermi dato l'opportunità di intervenire. Concordo pienamente, anche se non sono un dottore, ma con il dottor Confalonieri, cioè confermo in toto. Io sono uno sciatore, diciamo, da quando avevo 10 anni, ne ho 49, e per me è una sciata e una boccata di vita, fra l'altro. Perché anche quando sei lì, insomma, hai una visuale e tocchi il dito con un cielo. Detto questo, io associo anche una dieta da sempre. Sono molto attento anche all'alimentazione, oltre che a fare molta attività fisica per prepararmi, perché io vedo molta gente sulle piste che improvvisa e di solito poi va anche oltre i propri limiti. Io ho sempre consigliato a quelli che, insomma, ho conosciuto così nello chalet, piuttosto che a mangiare una polenta, di stare molto attenti a quelli che sono i limiti, perché poi la gente non riesce più a controllare a volte la velocità. Io faccio sci alpino discesa, sì, vado spesso a Cervinia piuttosto che in Svizzera, Zermatt, Splugen, così via, per fare un po' di pubblicità. Esatto, ma noi parleremo proprio di località sciistiche, quindi certo. Francesco ci ha offerto tanti spunti, buona sciata, si faccia una sciata anche per me e Deborah. Esatto. E noi andiamo, scivoliamo sui mercati? Scivoliamo sui mercati. Vi volevo anche leggere un messaggio carino che è arrivato da un ascoltatore, perché ci chiama Ciao Stelle, io sono allenato ma non riesco a fare il secondo test, ci racconta, perché sono ancora appoggiato al muro e non mi fa male, posso smettere adesso? È già arrivato tra l'altro da qualche minuto. Per cui lì fermo. Beh, comunque ha delle gambe d'acciaio, schiena e gambe d'acciaio, no, gambe muscolare. Anche ginocchia d'acciaio, veramente. Ma chi è? Sarà Hulk? Sarà Superman? Cuore e denari. Inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. Freddo o caldo, Nicoletta? Cosa preferisci per una vacanza invernale? Allora, a me piacerebbe il caldo, esatto. Però prendiamo anche il freddo. Beh, insomma, chiediamolo uguale. Anche ai nostri ascoltatori. Preferite salire sul cocuzzolo della montagna o fuggire in una spiaggia assolata? Noi ne parleremo tra poco, parleremo però particolarmente di mete fredde per le vacanze invernali degli italiani. Ne parliamo tra poco nella pagina di Denari. Quindi fatevi sotto anche sul tema della settimana bianca e della località prescelta quest'anno. 800 24 00 24, raccontate. Contateci se avete prenotato una casa per queste vacanze, dove, quanto avete speso e qual è il budget massimo che vi date, o se pensate di farlo per un altro periodo dell'inverno. Ne parliamo tra poco. Padrettino di cioccolata aiuta sempre, ecco, perché le virtù del cioccolato fondente sono state ampiamente decantate anche dai ricercatori, forse troppo, come ti ricordi, faceva notare un sì. Esperto che è intervenuto del nostro pubblico, ma dottor Confalonieri, dobbiamo anche, oltre che allenare i nostri muscoli, dobbiamo anche rifornirci in modo adeguato. E vado subito a leggere, a proposito di rifornimento, un sms che è arrivato da Edoardo, che ci consiglia di fermarci poco nelle baite. Oggi vogliamo anche raccogliere i consigli dei nostri ascoltatori, 800 24 00 24, e apriremo naturalmente la libreria di Cuore Denari. La polenta, Edoardo, concia non va bene? Ma io direi di sì, la polenta concia. No, perché squadra? Ma uno fa brucia un sacco di calorie. La benzina bisogna darla. Sì, anche. Non è male la polenta, ma è un po' impegnativa dal punto di vista digestivo. Diciamo che così ci rifacciamo anche alla telefonata precedente. L'ideale è una cena davvero abbondante quando si scia il giorno dopo. Quindi possiamo anche esagerare la sera, che è anche piacevole, i tempi sono lunghi, un bel pasto ricco di proteine e di polenta magari la sera. Quindi... Ma uno non dorme, però scia dalla grande. Dorme, se la roba è buona dorme. Sì. Una bella colazione, non tanto italiana ma continentale, quindi con uova, prosciutto, formaggio, prevalentemente sì. Salata insieme al pane, così si sì. Ricarica ancora un po' le proteine. Poi invece durante la sciata, meglio carboidrati, quindi cioccolato ideale, perché ci dà grassi, ci dà calorie e ci dà carboidrati, meglio quello fondente. E se ci fermiamo, l'ideale è ancora il vecchio piatto di pasta piuttosto sì. Che la polenta, magari con un po' di ragù, così è anche più piacevole, però sosta breve, pasta e via. Evitare naturalmente l'alcol, si dice tante volte, perché dà un piacere però, immediato, certo, da tanti punti di vista, però poi creando una vasodilatazione riduce la nostra capacità di difendersi dal freddo. Diteci che cosa mangiate quando vi fermate in baita, 800 24 00 24, perché una vacanza in montagna, Deborah, almeno per me e te succederebbe quello, potrebbe essere anche un'occasione per apprezzare la cucina locale. Direi che avrei voluto dirlo dopo che io e te sciamo zero, però cominciamo a confessarlo già da ora. Ci daremo alle ciaspole, che però non è che sono così facili, vero dottor Gonfalonieri? Esatto. Bisogna, però per le gambe sono magnifiche. Diciamo che non sono tanto difficili tecnicamente, questo è il grande vantaggio, quindi sono un po' alla portata di tutti. Però, guarda come ci guarda, però? Però sono molto impegnative fisicamente. Sì. Senti, io direi di abbronzarci sulla molto, neve. Molto impegnative fisicamente. Mi dica cosa fanno. A fronte di un impegno e quindi di tanta fatica, ritorniamo dopo una vacanza sulle ciaspole come... Ritornate soprattutto con un... qui la deludo, ti deludo. Con un cuore e un apparato respiratorio molto più allenati. Col colesterolo abbassato e forse anche con... glutei, addome, interno coscia un pochettino più tonici. Hai visto? Ciaspole, Luca da Trento. Luca da Trento, benvenuto. Lei intanto è in una località che non richiede grandi spostamenti, direi. No, per nulla, sono comodissimo per andare a sciare. Io sono sovrappeso e fumatore, ecco. Però ho un'ottima tecnica sciistica. Mm. Soffro le prime 2-3 volte, soprattutto il giorno successivo, per il mal di gambe, ma penso che con la tecnica si riesca a superare un po' l'allenamento. Presumo sia sbagliato, però è il mio caso. Luca, lei è simpatico. Facciamo avere un libro. Ognuno, Luca, di noi ha i suoi limiti. Perché d'altronde lui ci ha dato il consiglio. Ha detto già subito: sono fumatore sovrappeso e via. E quindi, come sai, mi è subito rimasto simpatico. E quindi c'è simpatico. E poi, insomma, si allena. Non si allena, ma lui c'ha una tecnica. Senta, possiamo regalarle un libro, Luca? Volentieri. Ne regaliamo cuore e denari. Facciamo cuore, dai. Dai, cuore, Luca. Allora, dottor Gonfalonieri, la tecnica. Luca ha una tecnica infallibile, e quindi, ma in che cosa consiste la sua tecnica, Luca? Tra l'altro, esatto. Beh. È scappato, comunque, non ce l'ha voluta dire. Diciamo che il problema di Luca è il sovrappeso, perché è chiaro che le sollecitazioni sia a livello articolare che a livello muscolare sono molto maggiori, quindi la tecnica probabilmente fa sì che queste sollecitazioni non creino danni, però guarda caso c'è un dolore muscolare forte il giorno dopo, proprio perché il muscolo, se c'è il sovrappeso, viene comunque impegnato molto. Il fumo non è un grossissimo problema, perché, ripeto, lo sci non richiede tanta resistenza. Può diventare un grosso problema, e quindi il fumo, la ridotta funzionalità respiratoria, se si va molto in alto. Perché allora ti manca fiato perché sei in alto, e ti manca fiato perché sei un fumatore. Allora, chiamateci per raccontarci i vostri trucchi, suggerimenti, consigli. Continuate a chiamare il nostro numero verde, potete mandarci i vostri messaggi al 349-238-6666. Ma, dottor Gonfalonieri, possiamo anche invitare i nostri ascoltatori a raccontarci se affrontano le piste con menischi o legamenti un po' malandati. Quali sono le tutele e le avvertenze da seguire? Perché quando c'è la passione... dottor Gonfalonieri, si fanno anche un po', no, degli strappi alle regole, e quindi ci sono anche degli sciatori che, nonostante tutto, per sciare si infilano una sorta di tutore e vanno. È corretto? E lo state facendo? Le regole diventano strappi muscolari immediatamente. Intanto che ci pensate e ci raccontate, andiamo a salutare Torino Venezia, Deborah. Andiamo da Giancarlo, perché aspetta da un pochino. Giancarlo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno e auguri a tutti. Altrettanto, Giancarlo, vengo, ci dica. Vengo al dunque. Io ho 62 anni quasi, sono un ciaspolatore. Ho rinunciato alle piste più che altro per le code, non per sì. altro. Ho un po' di sci alpinismo. Allora, durante l'anno io vado in bici, esco 2 volte alla settimana con le bici da corsa, tutto l'anno, inverno compreso. Qualche volta mi faccio un po' di kayak quando posso, e una volta alla settimana vado a nuoto. Noi affittiamo, posso fare pubblicità anche all'estero, perché purtroppo noi da qui da Torino ci muoviamo anche Giancarlo, verso la qui da noi basta che non siano parolacce e che qualche volta tra l'altro sfuggono, però altro che se lo può dire. Dove va? Allora, noi andiamo nel Queyras, che è proprio la regione che è dietro il Monviso. Da noi qui il Monviso è bellissimo, perché è bellissimo, la pianura, sì, è stupenda, penso sia una delle montagne più belle al mondo. Dall'altra parte direi che è abbastanza insignificante. Andiamo sotto praticamente nel Queyras, in quella zona lì, affittiamo un baitone, siamo fra un po' chiediamo a Paola Dezza del Sole 24 Ore, sì, se sa. Se sì, conosce quest'area. Il Queyras comunque è famoso, dietro di est, insomma, tutta la zona francese dietro, e ci aspoliamo. Siamo in moto, tutti più o meno della stessa età, intorno dai 60 ai 65 anni, siamo quattro coppie, e ci aspoliamo per 7 giorni, noi tutti i giorni usciamo e ci aspoliamo. La nostra alimentazione è una colazione... proprio violenta, direi. Violenta? Io sanno cosa non c'è su quel tavolo. Immaginate. Poi, naturalmente. La bistecca di brontosauro mangiate, Giancarlo. Mangiamo di tutto. Guarda, marmellate, c'è di tutto su quella tavola. Poi, mentre siamo fuori, cioccolate, marmellate. Cose molto molto caloriche, perché andiamo anche perché a... voi andate a ciaspolare e bruciate, sì, ciaspoliamo anche su neve fresca, quindi dobbiamo aprire le piste, insomma, facciamo anche cose, insomma, abbastanza. C'è un sacco da fare in quella baita dove Giancarlo va a fare un po' di vacanze con i suoi amici. Bella, mi piace, anche noi dovremmo prenderci un sì, voglio andare a vedere vacanza. La colazione, posso? Sì, le preparo io le colazioni. Guarda, brava, è tutto molto bello. Un'unica però... avvertenza, magari c'è gente che limita ma è meno allenata di loro. Mi mette insieme un po' tanti fattori di rischio a livello proprio di apparato cardiovascolare. Comunque sono persone non giovanissime, si alimentano in modo abbondante, quindi grosso impegno sanguigno a livello dell'apparato digerente per 2 o 3 ore. Sì. Impegno muscolare, perché per ciaspolare si fa fatica, soprattutto se fa freddo, attenzione, perché possono esserci controindicazioni acute a livello cardiaco e a livello cerebrale legati proprio alla ridistribuzione del sangue. Quindi, se fa molto freddo, piuttosto mangiate un po' più leggeri, non un po' più pesanti, perché da questo punto di vista fate prevenzione. Vi resta un po' di sangue per arrivare al cervello e per far funzionare il cuore. 800 24 00 24, abbiamo Stefano che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io scio da circa 35 anni, ne ho 49, premetto che frequento molto l'Alto Adige, mm-hmm, per cui l'Alta Badia, tutto il comprensorio, che è vastissimo, uno dei più, diciamo, più belli. Sì, perché è collegato con tutto il Sella Ronda, esatto, la Val Gardena, insomma, è bellissimo. Tanta roba, insomma, Debora. Sì, segneremo per Paola Dezza, quindi quella è la sua zona. Sì, sì, poi anche altro, ma lì è proprio secondo me il top. Poi anche a livello culinario, lì veramente hanno fatto dei progressi. Ma Stefano, che cosa mangia quando va lì? Ma allora, faccia sognare. Ci faccia sognare, che sono le 11:44, noi saremo già pronte. Infatti, per cui lì, diciamo, io ecco, uso sempre i prodotti loro, c'è cioè la cucina ladina, per cui lo stinco, la pasta che fanno loro con lo speck. Poi c'è un piatto. Poi i dolci, molto... lo strudel. Un discreto carburante, direi. Quello sì. E poi c'è un piatto tipico che si chiama il Kaisersmann, che è fatto con le uova, la fecola, e poi sopra usano una marmellata fatta da loro ai mirtilli. Wow. Diventa una sì, quello è eccezionale. Si può usare come piatto unico, che è veramente, diciamo, una cosa molto. Ecco, molto allora lì, vede, dottor Confalonieri già subito vuole entrare. Ha fatto. Sì, perché questa mi piace molto come cosa invece, perché questo è un insegnamento che vale per questa realtà, ma per tantissime altre realtà. Cioè, seguire quella che è la tradizione della zona dal punto di vista alimentare è spesso la scelta più intelligente, perché negli anni e nei secoli la cultura porta a mangiare nel modo più adeguato alle attività che si fanno in quel clima. Quindi in questo caso un'alimentazione a chilometro zero e sostenibile è ideale anche e soprattutto dal punto di vista della salute. Quindi questo è davvero un messaggio importante. Che è molto in linea anche con l'Expo. Assolutamente, vedi che abbiamo fatto un aggancio. Ma qua vengono degli aggancini. Voglio leggere, prima di salutare, un messaggio di Fabrizio da Biella. Baita nel biellese. Sì. Accento, non so. Sempre aperte agli amici. Polente cotechino, polenta concia. Hai visto? Fritto misto piemontese e con calma via con le ciaspole. C'è di tutto. Quindi benissimo. Non sappiamo se ci invita, però. Esatto. E c'è anche chi dice, ragazzi, attenzione al bombardino. Che Peter Bescapè, il nostro alpino, invece conosce molto bene come istituzione, direi. Dottor Confalonieri, so che lei non vorrebbe più andare via, so che deve andare, anche perché sta arrivando la nostra ospite della pagina di Denari, con cui andremo in giro per le località sciistiche a monetizzare. Faremo un po' di conti in tasca anche alle famiglie. Col cuore c'entro molto, ma con i denari proprio poco. Adesso non si lasci desiderare troppo a lungo come lei si è abituato a fare. Spero che mi abbiate perdonato e grazie come facciamo davvero. Non perdonarlo. Certo. A Natale siamo tutti più buoni, d'altronde. Grazie, dottor Confalonieri. Grazie, arrivederci a tutti. Cuore e denari. Allora, io l'ho denunciato prima di non essere una sciatrice e di preferire il caldo a freddo, essendo nata ad Ancona, sono una marinaretta nata. Beh, tu sei un po' meno giustificata di me, perché essendo torinese, un po' più confidenza. Ma io sono metà siciliana e metà piemontese. Hai ragione. Quindi sono più o meno marchigiana. La componente siciliana ha avuto il sopravvento su quella torinese. Allora, io e Nicoletta parliamo più di mare che di sci, però le nostre montagne, le nostre piste sono straordinarie, davvero belle e appassionano milioni di italiani che invece non vedono l'ora che arrivi questa stagione per indossare la tuta e gli scarponi e fare una bella sciata, ne abbiamo parlato in tutta la prima parte, una bella scarpinata sulla neve, ma naturalmente in tempo di crisi le famiglie forse negli ultimi tempi hanno riconsiderato un po' le mete, hanno magari fatto scelte diverse rispetto al passato. Il tema è stato approfonditamente analizzato ieri sulle pagine di Casa 24 Plus. Paola Dezza, io non mi ricordo mai, non è molto carino da parte mia che lavoro con te, se viene prima Plus o 24, Casa 24 Plus è corretto? Giusto, corretto. Perfetto, Paola Dezza del Sole 24 Ore, ben trovata. Allora, insieme... Non avresti avuto il coraggio di dire che stavamo sbagliando, no. Vero, siamo troppo carine. Sciatrice Paola, non te l'ho mai chiesto. No, perché i risultati quando ho provato sono stati veramente terribili. L'anno scorso ho provato lo sci di fondo, ho fatto qualche lezione, mi è piaciuto. Quest'anno vedremo se replicheremo. C'è sempre la ciaspola, la cara vecchia ciaspola. Però ho capito che dura è anche la ciaspola. Altro che. Il fondo invece è meno duro di quanto pensassi. Vincenzo De Tommaso, ufficio studi di idealista.it, un grande portale italiano di annunci immobiliari. Benvenuto anche a lei. Lei com'è sugli sci? Abbastanza bravo. Ecco qua, ci ha umiliato tutte e tre. No, dobbiamo gli crediamo sulla fiducia. Esatto, perché... non l'abbiamo mai visto e quindi potrebbe dirci anche che è un surfista eccezionale sulle onde. Esatto. Ecco qua. 800240024 è il numero verde per i nostri ascoltatori, ai quali chiediamo di raccontarci dove andrete a sciare nelle prossime settimane, che budget di spesa vi siete dati. Dateci anche i vostri suggerimenti per spendere una cifra ragionevole, perché non c'è solo l'affitto della casa, spesso si deve affittare tutta l'attrezzatura, non è detto che tutti abbiano in dotazione già, no? Sci, dopo sci, tute e quant'altro. Si paga lo ski pass. Il giornaliero, insomma. L'anno scorso l'ho chiamato, anzi con dei miei amici lo chiamavo lo sky pass e ancora mi prendono in giro. Da qui si denota la mia esperienza sull'argomento. Insomma, è una passione molto divertente, ma non totalmente a buon mercato. Paola, però, quello che tu scrivi sulle Sole di ieri, appunto, è molto interessante. La settimana bianca è un appuntamento fisso per molti italiani. Decisamente. I canoni sono leggermente scesi dell'ordine del 5% negli ultimi 12 mesi, quindi si riescono a trovare anche offerte forse più interessanti rispetto a un anno fa. È un appuntamento fisso, magari appunto si rinuncia ad altre cose, però la settimana bianca anche in genere si fa cercando le località nelle quali magari si paga meno, perché appunto come dicevi tu poi il noleggio dell'attrezzatura effettivamente incide su sulla settimana, certo, sul corso certo. della settimana. Allora andiamo subito alle località dove quest'anno si paga un po' meno degli anni precedenti. Direi di andare immediatamente al cuore dell'analisi. Ecco, chi sale, chi scende. Abbiamo analizzato una trentina di località, ce ne sono 10 che sono le più richieste, dove sono aumentate le richieste di affitto, e sono anche alcune care, perché Courmayeur e Cervinia sono tra queste 10 località. Però con 400 euro per un appartamento piccolo da 4 persone si può affittare a Bormio, si può affittare a Cesana Torinese. 400 euro a settimana. A settimana. Quindi non è un costo eccessivo. Si arriva chiaramente anche... Stiamo parlando di questo periodo anche natalizio, che è quello di altissima stagione. No, il periodo natalizio è più caro, sì. Perché la settimana bianca, diciamo tra gennaio e febbraio, costa meno. Il periodo più caro in generale è Natale e Capodanno, dove i prezzi non dico raddoppino, però in alcuni casi sono più alti del 30-40% e anche più sicuramente. Per cui diciamo si possono trovare varie offerte. È chiaro che si può arrivare a 1200 euro a settimana se si scelgono Ortisei, Courmayeur e altre località dove i costi sono elevati, dove anche l'offerta forse è più bassa, perché la Val Gardena è una delle zone dove c'è stata una grande tutela del territorio, quindi non si è costruito in maniera selvaggia e i prezzi al metro quadro anche per acquistare sono molto alti. C'è ancora chi acquista anche questa seconda casa nelle località montane, Paola? Il mercato della seconda casa è un mercato che soffre molto, era un mercato di nicchia, è un mercato in cui le compravendite sono decisamente in discesa anche quest'anno. Anche perché colpa della Tasi. Colpa della Tasi, colpa dell'IMU, perché l'IMU, ricordiamoci, ha un'aliquota molto elevata, perché diciamo è il 7,6 per mille, che però può arrivare anche al 10,6 per mille a scelta dei comuni, quindi difficilmente i comuni hanno scelto l'aliquota più bassa, sicuramente sono posizionati su aliquote o medie o alte, quindi incide, ma incidono molto anche i costi di manutenzione di una seconda casa, perché si rovinano molto sia al mare per la salsedine che in montagna per le temperature, poi le case in montagna sono fatte in molte parti in legno, il legno si usura facilmente, quindi anche i costi di manutenzione non sono da poco. Trascurabili. Ce n'è sempre una, lo so. Meglio averla che non averla, però quando si... Esatto. De Tommaso, idealista.it, ci faccia un po' invece una fotografia del traffico che avete in questo periodo sul vostro sito. Che cosa racconta l'incrocio fra domanda e offerta per quello che riguarda appunto il turismo in montagna in questo periodo? Ecco, noi abbiamo analizzato i dati che sono stati estrapolati da rentalia.com, che appunto è il sito degli affitti vacanze di Idealista. Idealista è un gruppo europeo leader degli annunci immobiliari. Rentalia conta oltre 40.000 alloggi in 5 paesi, tra cui l'Italia. Abbiamo censito oltre 1.500 appartamenti o altre tipologie immobiliari disponibili sulle principali località di vacanza. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che appunto le località più scelte dagli utenti, dagli amanti della neve, sono località che sono in un raggio di un massimo di 3 km dalle piste da sci, con una predilezione in particolare per il Trentino Alto Adige e per le località della Lombardia. Quest'anno il trend è questo. Insomma, la Val d'Aosta scende un po'? Sì, la Val d'Aosta scende leggermente anche il Piemonte quest'anno, quindi diciamo gli utenti stanno orientando quest'anno un po' più verso il settore orientale. Benissimo. Occidentale. Andremo poi ad analizzare i budget di spesa, invece insomma raccontatecelo ascoltatori, diteci un po' quanto avete messo sul piatto quest'anno. Leggo velocemente cosa ci scrive Carmelo, Deborah e Nicoletta. Io parto per la Sicilia, precisamente vado a Tusa, Messina, dopo Natale per gustarmi una bella temperatura sia primaverile che invernale e poi spostarmi sull'Etna per snowboardare. Fantastico, un fortunato, lo salutiamo. Cuore e denari. Fiocca, fiocca la neve. Fiocca, fiocca sui tetti. E noi due stretti, stretti. Ma che fiocca, oggi c'è un sole qua a Milano che... Non vedremo la che neve. Che scalda il cuore, meno male. Meno male, dai. Cioè, allora, non siamo molto simpatiche agli ascoltatori che amano la neve, perché noi abbiamo ammesso che invece non amiamo moltissimo lanciarci sulle piste da sci. Però, naturalmente, vogliamo accompagnare chi invece sceglierà di fare la settimana bianca. Li stiamo accompagnando virtualmente con Paola Dezza del Sole 24 Ore, Vincenzo De Tommaso di Idealista.it. tra le località più o meno rinomate. Facciamo questa guida ai prezzi di quest'anno, quanto costa una settimana, naturalmente non fermandoci solamente, no Nicoletta, agli affitti per le abitazioni, no, ma a tutta l'attrezzatura, ski pass. Costa, eh? E ci sono già dei nostri ascoltatori che ci stanno suggerendo degli escamotage. Esatto, chi per esempio, adesso mi sono persa il nome dell'ascoltatore che ce lo raccomanda e ci racconta che compra, sottoscrive questo abbonamento giornaliero allo ski pass, lo fa appunto giornaliero, per poi alle 12 a mezzogiorno venderlo a metà prezzo, evidentemente a qualche amico, per cui si suddivide un po' la spesa anche. Oppure in questo c'è modo. Chi va a sciare durante la settimana, perché il giornaliero, i costi del giornaliero si riducono sensibilmente. Questo ci suggerisce un nostro ascoltatore. E un ascoltatore, un'ascoltatrice, sì, per te, Paola. Sì. Proprio omonima. Omonima ti dice che insomma far fondo non costa tanto fatica, perché si può passare il tempo anche a chiacchierare. Se io credo, se uno è un po' allenato, perché poi no, manca un po' il fiato. Allora, detto Maso, accennavamo alla neve. Il fatto che fino ad ora ne sia caduta poca è un dato che si registra anche nell'andamento dei prezzi, oppure ormai per queste settimane erano già fissati, per cui è ininfluente che gli sciatori trovino o meno la materia prima per praticare lo sport. No, diciamo che è ininfluente questo fattore. Chi piace va lo stesso, insomma. Esatto, i prezzi sono calati e calano soprattutto per l'aumento dell'offerta, anche perché abbiamo registrato un incremento di annunci di case per le vacanze quest'anno nell'ordine del 55% rispetto all'anno scorso. Cioè, come sul mercato Paola, si è riversato tutto questo numero di case in affitto? Sì, perché soprattutto, come diceva Paola, i costi del mantenimento di una casa di proprietà in montagna sono diventati molto più elevati e quindi molti proprietari si spingono a proporre il loro immobile sul mercato. De Tommaso, lei prima ci ha fatto un elenco di località, ci dice un po' i prezzi che monitorate sul vostro sito? Ecco, riguardo ai prezzi, diciamo subito che con un esborso di circa 420 euro persona si riesce a fare una settimana nelle principali località di vacanza a livello nazionale. Il fatto interessante, al di là delle località arcinote, no, le più care, faccio un esempio, può essere Cortina, dove il prezzo di un'abitazione costa 163 euro a notte, oppure le località dell'Alto Adige, dove appunto c'è meno disponibilità di immobile, quindi i prezzi sono più alti, superano ampiamente i 100 euro a notte. Questo fenomeno appunto della settimana bianca in affitto ha fatto emergere anche altre località, se vogliamo fuori circuito o comunque non le solite mete turistiche. Faccio qualche nome? Facciamo qualche nome. Abbiamo le mete emergenti. Ieri parlavamo dei paesi emergenti per quello che riguarda i mercati finanziari, ma anche in relazione allo sci, cioè il medesimo mercato, diciamo. Facciamo il chi sale chi scende, dai. De Tommaso, via. Esatto. Oberhergen in Alto Adige è un posto molto molto interessante per chi ama lo sci, così come Nicoletta conosce. Io lo conosco, guarda, sembra strano, ma è vicino, è dietro Bolzano, vero? Sopra, esatto, Bolzano, esatto, non esatto. Si dice dietro, dai. E vabbè, lo stesso, dai, siamo tra amici, ci perdoneranno, anche se il linguaggio non è del tutto appropriato. E poi me la ripete la località che invece Oberhergen. Che pronuncia? Hai sentito? Ma e lì Sacher a gogo, va bene. Poi Sacher, poi sempre per l'Alto Adige c'è la Val d'Ultimo, che sta emergendo negli ultimi periodi, ma anche Di Maro, Andalo, che sono invece delle località del Trentino, Sappada, Pragelato, insomma delle località che solitamente non erano in cima alla lista. Invece si sono fatte largo adesso, chiaramente anche a causa della crisi, ma insomma la crisi porta anche a scoprire dei posti che magari molti non avevano mai tenuto in considerazione. Esatto. Prima di risentire Paola Dezza, qua i Paolo stamattina si sprecano, sono in tanti, vorrei sentire Paolo, esatto, che ci chiama da Milano, qua vicino. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi tutte. È pronto? Prontissimo, oh. Io sono un possessore di seconda casa in Valle d'Aosta, sì, che è una regione che mi pare che state bistrattando alla grande. Si parla sempre solo di Alto Adige, allora, e Trentino. Ma bistrattando è una brutta parola. Sono tutti lì, eh. No, bistrattando è una brutta parola. No, sembrava, dai, ancora non sì, ci siamo arrivati. Dai, ci arriviamo, Val d'Aosta, tra l'altro. Arriviamoci, perché da Milano in due ore siamo sulle piste, in Trentino non si arriva mai. Quindi la Val d'Aosta è vicina, poi? Ecco, è conveniente, Paolo. La Valle d'Aosta è vicina a un grosso neo che purtroppo quest'anno, da due anni a questa parte, ci stanno ammazzando con i costi autostradali. Hanno triplicato i costi, e probabilmente qualche esperto più esperto di me vostro ve lo dà, ma io sono esperto sulla mia pelle. Siamo passati da 10 a 17 euro sulle a 27 euro sulle tratte autostradali. È chiaro che poi la gente non ci viene più, certo, non ci vuole più venire. Abbiamo delle località che a dire che sono meravigliose diciamo poco, certo, perché ribadisco, i 4.000 in Europa sono tutti lì, Rosa, Cervino, Bianco e via dicendo. Però con questi prezzi, una famigliola che parte con due bambini, marito e moglie, fate quattro conti, solo di autostrada, di noleggio e di una settimana bianca, cosa fa? Torna a gomma. D'altronde, certo, Paolo, quando ci sono questi monopoli naturali, chiamiamoli così, le tratte autostradali lo sono appunto proprio per definizione, non si può far nulla, o si rinuncia al viaggio oppure ci si incarica e ci si sobbarca di questi aumenti che dobbiamo denunciare al nostro amico Furio Truzzi di Assoutenti, il nostro amico per tutto ciò che attiene ai trasporti. Lo scaldiamo subito e gli segnaleremo questo argomento. Intanto, a proposito di prezzi, il sì, nostro ascoltatore ci suggeriva che passa lo ski pass a mezzogiorno, un altro, comunque lo sappiamo che è illegale, questo, quindi bisogna tirargli le orecchie. Sono tantissimi messaggi che arrivano, perché è nominale, quindi è vietato cederlo. L'abbiamo vedi preso, che sono proprio inesperta sull'argomento. Dopo sì, la Val d'Aosta, dopo questo inno alla Val d'Aosta, che è comunque una regione che a noi piace molto, è comoda, è bella, dei castelli straordinari, e Aosta è una splendida città. Dove andiamo? Allora, prima volevo andare con Paola perché le voglio chiedere quanto tempo prima, per avere secondo te una tariffazione, un affitto conveniente, bisogna prenotare l'abitazione che abbiamo così un po', su cui abbiamo messo gli occhi, e secondo te per spuntarla con un proprietario bisogna essere fedeli, prenotare sempre la stessa, oppure se vogliamo cambiare cosa facciamo, con quanto anticipo affittiamo? Ma dipende, affittiamo. C'è chi prenota sempre la stessa perché magari si trova bene nella località. Io in genere a livello personale mi muovo sempre presto, perché poi ho il terrore di non trovare più niente e quindi i prezzi chiaramente poi diventano diversi. Ma per questo mercato il last minute vale? Il last come minute per le Maldive? Vale, ma non credo che i prezzi cambino più di tanto, nel senso non c'è un crollo del prezzo all'ultimo momento, gli affitti rimangono sempre lì, però uno può anche scegliere di aspettare l'ultimo minuto, vedere cosa rimane sul mercato e tra le varie località, certo, scegliere quella magari meno costosa. O quindi o molto presto proprio all'ultimo minuto. Secondo me sì. Si gioca un po' con... Sì. Grande anticipo oppure lì quando hai già gli sci ai piedi. 800 24 00 24, continuate a chiamarci, a scriverci al 349 238 6666. E la Sila, ci scrive un ascoltatore? Non sappiamo. De Tommaso. Non siamo. Ha qualcosa da dire a proposito di quest'area? Nella nostra tabella ci sono anche Labetone e Rocca Raso, certo, al sud. Quindi, però diciamo che il grande delle località nord, è tutto al nord. In Abruzzo si scia anche un po' nelle Marche, naturalmente. Certo, nelle Marche. Sì, certo. Non possiamo mica sempre solo parlare di. No, dai, parliamone un po'. De Tommaso, ma la Sila ci illumini. Ma diciamo che non è tra le località in questo momento in trend crescente, almeno secondo la nostra analisi, che va dallo stendio all'Etna. Va bene. Diciamo che però per citare alcune località del centro-sud, sicuramente un classico, anche per la praticità diciamo della logistica, per gli utenti soprattutto romani, e Labetone insieme alle mete vacanziere dell'Abruzzo, quindi Rocca Raso, Rivisondoli, Ovindoli. Come è preparato, ma lei dove va? Dove andrà? Allora, io andrò in Alto Adige, però io vivo a Milano. E quindi non è molto conveniente andare a Roccaraso, come dire, oppure a sciare sull'Etna. Però potrebbe sì. Che a me fa anche un po'. Per i romani però sì. Per i romani però sì, e per chi è diciamo campano, come diciamo, le mie origini non tradiscono, sicuramente c'è Campitello Matese in Molise, che è diciamo, una delle località più interessanti dal punto di vista sciistico andando a sud. Quante cose abbiamo appreso oggi? Vedi, consigli e suggerimenti anche da parte dei nostri ascoltatori all'800240024. Dove ci portereste per esatto. una vacanza in montagna? Allora, io vediamo se vuole portarci con sé. Mi Paola. Piace. Vedi che gliel'ho lanciata lì. Mi ha fatto venire veramente un'idea, magari in futuro per i miei nipoti, anche se poi Paola Dezza, un po' qua a microfoni spenti, ce l'ha scoraggiata. Adesso vi spiegheremo perché. Paola, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono al supermercato per la spesa. Cosa sta comprando, Paola? Sto prendendo per Natale, perché noi domani partiamo, siamo due nonni, con il papà, perché sono separati, e il bimbo, che ha 7 anni, sarà l'ultimo anno in cui crederà probabilmente a Babbo Natale. Sì, però Paola lo sappiamo, perché poi magari Babbo Natale va a portare i regali magari ai bambini già, più piccoli, già, mentre a quelli più grandicelli. Però comunque c'è sempre. Partiamo domani mattina, andiamo a Rovaniemi. Che è in? In Lapponia, Finlandia-Lapponia. Ci fermeremo fino al 23 sera e mio nipotino incontrerà Babbo Natale, l'ufficio postale di Babbo Natale in persona. Poi andremo a vedere, con la slitta trainata dalle renne, andremo alla fattoria delle renne, e poi andremo a vedere lo zoo che è un pochino più fuori Rovaniemi, sì, dove ci sono gli orsi polari. Allora Paola, che temperatura trova l'ala? Perché Paola Dezza ci diceva che quando si arriva in quella località, praticamente in automatico, usciti dall'aeroporto, c'è chi arriva con l'imbragatura totale antigelo da far indossare agli avventori appunto di questo posto. Molto secco. Ho visto le temperature, siamo sui meno 6 per adesso. Neanche tanto, cioè anche qua le abbiamo viste. Insomma, niente. Però possiamo andare a portare i tuoi nipotini anche noi il prossimo anno. La zia no, ma noi ne abbiamo 3 di nipoti, cioè Deborah, che sono diventate anche un po' i nostri. Ecco. Va bene, niente, noi andremo lì e poi il Babbo Natale verrà anche in albergo a portare il regalino ai bambini. Paola, suo nipote è molto fortunato che ha questa opportunità. Però insomma, caldo. Però quest'anno abbiamo deciso di fare una sorpresa. Paola, io mi devo fare gli affari suoi dal punto di vista economico. Quanto si spende per questa avventura? Ecco, è un po' onerosa sotto Natale. Sono 3 notti, ma il problema è che noi andiamo in 2 camere diverse, ovviamente, perché c'è mio figlio col bambino e io e mio marito. Ma una volta nella vita si può fare. Noi facciamo tutto. Facciamo un camerone. Un camerone di cuore denari. Ti voglio a dormire con i miei nipoti. Grazie Paola, buon Natale a lei e a tutta la sua famiglia. Legga le etichette, Paola. Insomma, chissà se si scia in Lapponia. Si scierà certamente, Paola Dezza, tu che dici? Non essendo un'esperta di sci, ma penso però di sì, raccontaci insomma di questa cosa che mi dicevi prima. È vero che bisogna imbragarsi? Io so che fa molto freddo. Quando appunto mia madre si era informata, le hanno detto che l'avrebbero insomma subito. Certo che noi facciamo sapere tutti gli affari nostri ascoltatori. Chiudiamo in bellezza con Roberto, non so se ce la facciamo. Roberto, in 10 secondi, lei proprio le piste da sci ne ha anche per sogno. Ci dica al volo. Se la ride. Buongiorno. E auguri. Anche a lei. No, guardi, io ho provato ad andare tanti anni fa a sciare, ma purtroppo non è... No. Non è il suo. Non è il suo. Come per me, Roberto. Io guardi, proprio neanche... Siamo in 3. Cascavo sempre, ho scelto sempre di farmi del mare, però non è il mio sport, diciamo, ecco. E quindi se tutto è possibile, col budget non spendendo molto, lo farei una crociera al Mediterraneo a Dubai. Adesso mi è arrivata una cartolina, stavo facendo eccolo là. Ci pensi, cara, ma poi Paola, ci racconti. Esatto, Paola, devi rifare la copertina qua. Lì, se tutto va bene. Ma sì, dai, la Roberto, una bella crocerina. Paola, qua tocca scrivere. Ecco qua. Mete estive d'inverno. Ecco qua, ti do già il titolo della prossima l'ultima inchiesta di Casa 24 l'abbiamo Plus. L'abbiamo fatto qualche volta, Natale ai Caraibi. Vedi? Cara Paola, buon Natale a te e grazie, alla tua famiglia. Anche a voi. Buone grazie. Feste anche a Vincenzo De Tommaso, ma prima di chiudere... Sposa Martina. Eccola ci ha mandato qua. Un messaggio, è stato un invito a partecipare alla sua gioia e tu noi pensa vogliamo che il giorno prima di sposarsi ha tempo di mandare un messaggio a noi, ma è incredibile questa e cosa. E fa bene perché siamo amiche e ci tiene nel cuore e noi le vogliamo e noi bene. Lei. Tu le nostre migliori felicitazioni si dice in questo caso. Tanti auguri e vissero felici e contenti. Esatto, e noi invece ci ritroviamo qua lunedì felici e contenti. Dopo tutti gli acquisti di questo weekend prenatalizio, grazie a tutti. A Paola, grazie che è venuta a trovarci, a Paola Dezza, Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Marco, Laura Vanossi esatto. che è già sposata. Esatto, Marco Lombardo che mi magari va in ferie, lo vogliamo far sposare. Che mi va in ferie e naturalmente. E noi, dai, noi torniamo lunedì. Due, dai. Lunedì. Buon weekend a tutti.